Ieri abbiamo avuto un tavolo con la presenza del comune, tutti i sindacati e le cooperative coinvolte, quindi a parte le centrali cooperative, con cooperative Lega Coop, in particolare Consorzio Scolario e Mondo Donna, che formano questa ATI che fino adesso gestivano l'hub di Via Mattei. Partendo dal presupposto che siamo tutti d'accordo su anche la verità di questi nuovi bandi, che continuano a essere a ribasso, e quindi partendo da lì quel tavolo ha voluto costruire un percorso per fare in modo che non solo i lavoratori che in questo momento sono fuori dall'hub di Via Mattei, che era il proprio luogo di lavoro, ma costruire anche una prospettiva verso le prossime scadenze che ci sono comunque in quest'estate, che sono il 30 giugno la scadenza dei bandi CAS e il 30 settembre la possibile riapertura, perché la prefettura così ha detto al comune, però ci fidiamo fino a un certo punto dell'hub di Via Mattei. Quindi ieri è stato più un tavolo anche conoscitivo e di prese di varie di posizioni, visto che è il primo tavolo effettivamente in cui sindacati e cooperative si sono ritrovati insieme per parlare del fatto specifico dell'hub di Via Mattei. Abbiamo un aggiornamento a stretto giro, quindi martedì mattina, per studiare al meglio la situazione, quindi speriamo già da martedì pomeriggio di avere delle cose più chiare. Ecco, tu in apertura parlavi di questi bandi che nel precedente giro, diciamo così, le cooperative avevano disertato, anche perché le condizioni imposte dalla legge Salvini, anche economiche ma non solo, anche per quanto riguarda i servizi erogati, sono improponibili. Hanno cambiato atteggiamento le cooperative o rimangono su quella linea? Allora, questo lo faccio dire direttamente alle cooperative, perché non sono io che devo fare queste dichiarazioni. Dopodiché dico soltanto che i bandi sono uguali a quelli già usciti nella precedente tornata. Cambiano di qualche euro, soprattutto quelli per i posti e per i CAS con meno di 50 persone, ma aumentano comunque il costo in altri servizi sempre all'interno. Quindi di fondo sono uguali. Aggiungo un'altra cosa sui bandi. Appunto, sono stati 350 posti per i bandi a delle strutture con meno di 50 persone e 550, se non erro, per delle strutture che vanno dai 51 ai 300 posti. Ecco, in questo momento a Bologna pare che non ci siano, cioè attive non ci sono strutture di CAS che hanno quella portata, anche perché Bologna si è sempre definita anche un po' portavoce dell'accoglienza diffusa e lo portava come un trofeo. Bene, in questo momento non ci sono strutture per quella fascia lì, quindi è un grosso problema che si porrà da qua a breve, perché il bando chiuderà il 23 luglio sapremo effettivamente se qualcuno si è presentato o no, cosa che auspico di no, e ci spero anche, però staremo a vedere. Per quello anche siamo molto attenti su questo tema. In conclusione, quindi, sia per i lavoratori dell'hub che in generale per tutti i lavoratori dell'accoglienza, il futuro comunque rimane ancora abbastanza incerto. Certo, questo è un grande problema, anche i lavoratori sono consapevoli di questo, infatti anche già ieri sera, subito dopo il tavolo che abbiamo avuto, c'è stata un'assemblea pubblica lanciata da tutta quella composizione, lavoratori e lavoratrici d'accoglienza e tutte le realtà sociali che hanno partecipato alle straordinarie giornate della scorsa settimana davanti all'hub, per rilanciare comunque il percorso. Adesso verrà rilanciato un'altra assemblea la prossima settimana, non sappiamo ancora il giorno, però verrà fuori a breve, perché questo percorso che si è attivato con l'emergenzialità della chiusura del Mattei vuole continuare, perché sappiamo che non è finita qua, e quindi per la difesa dei posti di lavoro e della dignità delle persone che sono all'interno dei percorsi di accoglienza e lavorano all'interno, bisogna prendere e cominciare a difendersi.